torno a nido la rondine cinguetta. La mia cuffietta, la mia cuffietta. Smarristi la chiave. Va a cercarla, tastone, ti sei messa. E cerca, cerca. Mio bel signore, non posso ben dirlo adesso. Me lo trovo assai presto. Cheers.